e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Questa mattina nelle scuole italiane, Deborah, si farà un minuto di silenzio a seguito degli attacchi terroristici che hanno drammaticamente ferito Parigi. Venerdì notte hanno ferito Parigi, la Francia, l'Europa, tutti noi. È vero, questo minuto di silenzio è seguito anche da un'ora di riflessione. Questo è stato l'invito del ministro dell'istruzione Giannini, perché i fatti di Parigi vengano affrontati e siano al centro dei pensieri di tutti, anche dei nostri ragazzi. Allora, anche noi oggi a Cuore Denari avremo nei nostri pensieri Parigi, le sue vittime, i suoi abitanti, perché siamo tutti coinvolti in questa tragedia. Assolutamente, queste notizie le abbiamo, le avete sentite commentare, analizzare sotto ogni punto di vista in questi giorni, e noi a Cuore Denari abbiamo ritenuto doveroso creare uno spazio di informazione anche per noi, un'ora, anzi un'ora e mezza di riflessione sulla tragedia francese. E naturalmente parleremo anche ai genitori, perché è importante trovare le parole giuste, le immagini giuste per raccontare questa tragedia ai nostri figli. Per quanto riguarda l'informazione anche economica, non vorrei sembrare troppo cinica, ma anche questa mattina dobbiamo dare, racconteremo della reazione dei mercati finanziari rispetto ai fatti di venerdì, anche perché questi sono spesso un indicatore della sensibilità ai grandi avvenimenti. Una reazione che in realtà stamattina sembra essere proprio un vero scatto d'orgoglio. Abbiamo avuto un'apertura negativa per le borse europee, che invece adesso sono tornate a salire, addirittura stanno guadagnando terreno, quasi a non voler mostrare l'emotività, la fragilità che tutti noi sentiamo, in particolare l'Europa colpita nel suo cuore. Però ve lo anticipo già, adesso avremo un operatore ai nostri microfoni. In realtà per qualcuno qualche reazione, almeno nel medio termine, qualche conseguenza nel medio termine dal punto di vista economico, ce la dovremo aspettare. E noi parleremo di quotidianità, no? Questi attentati hanno colpito, ci hanno colpito nella nostra quotidianità, la vita quotidiana di cui ogni giorno parliamo qui a Cuore Denari. Allora non ci chiederemo solo quale sarà la reazione dei mercati, che anche loro risentono, vero Deborah, di questo clima? Sì, sì. Hanno delle reazioni un po' come abbiamo noi, gli individui, le persone, e parleremo della reazione di tutti noi, come gestiremo la nostra emotività, quale parole useremo in famiglia, ma per spiegare, ad affrontare questi avvenimenti anche ai nostri figli. Condividiamo quindi i nostri pensieri, le nostre domande, le nostre riflessioni da qui fino alle ore 12. Volevamo invitarvi insieme a Deborah a condividere con noi l'immagine, il titolo di giornale, lo strillo, la frase che vi è rimasta, no, più nel cuore, che a distanza di anni siete già sicuri che sposerete, abbinerete sempre agli avvenimenti di Parigi. Io porto nel cuore l'immagine delle persone che uscivano dallo stadio cantando la Marsigliese. Per me questa è l'immagine che io legherò ai fatti di Parigi. Lavoriamo proprio sulle immagini, sulle parole che hanno colpito la nostra emotività, che in modo tale che noi le associamo a quegli eventi. Ci ragioneremo insieme ai nostri esperti, faremo delle riflessioni insieme. Volevi sentire anche la mia su che cosa mi ha colpito particolarmente di questi fatti? Il suono degli spari ripetuti, che naturalmente riguardavano praticamente questi terroristi che senza alcuna pietà decimavano una persona dietro l'altra sotto gli occhi di altri che probabilmente si sentivano impotenti ed inermi. Ho cercato più volte in questi giorni di medesimarmi in quella situazione di quelle persone che sono sopravvissute, che vedevano davanti ai loro occhi appunto invece altri che venivano massacrate e uccise. Questa è stata una cosa che mi ha fatto riflettere molto. Quindi due letture dello stesso fenomeno, ciascuno di noi. Deborah ha colto un aspetto, io ne ho colto un altro. 800 24 00 24, per dirci che cosa vi è rimasto nel cuore, certo. Quale è l'emozione che in questo momento cercate di riconoscere in voi e che fate magari fatica a gestire. Presentiamo la prima rosa di ospiti. Volentieri. Che commenterà con noi tutto questo. Allora, andiamo. Sì, comincio intanto, per quello che riguarda il tema economico-finanziario. Saluto e ringrazio per essere collegato telefonicamente con noi Andrea Ragain, responsabile della divisione Wealth Management di Banca Generali. Buongiorno e benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Perché, come abbiamo detto, c'era, e lo ribadisco cinicamente parlando, ma insomma, la relazione fra il mercato e il cinismo la facciamo spesso, grande attesa per verificare se la tragedia di Parigi potesse far ripiombare anche i mercati finanziari nelle giornate che seguirono l'11 settembre americano. A quella tragedia le autorità risposero con la chiusura dei mercati per una settimana. Invece questa mattina che cosa è successo? Che c'è stata una reazione di primo impatto negativa per le borse europee, che hanno avviato la seduta con un ribasso di circa un punto, poi recuperata molto rapidamente. C'è stato un progressivo miglioramento e adesso abbiamo quindi questa tenuta. Vi faccio un punto della situazione: meno 0,2 Milano, era positiva fino a poco fa, meno 0,2% Parigi, meno 0,15% Francoforte, Londra addirittura guadagna mezzo punto. Ne parleremo tra poco con Andrea Ragaini. Qua in studio abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Giada Maslovaric, che è esperta in psicologia dell'emergenza e in psicotraumatologia. Grazie dottoressa per essere qua con noi. Buongiorno a tutti e grazie a voi. Lei ci aiuterà a capire che cosa succede nella mente di chi si trova coinvolto in una situazione come di questo tipo e vi sopravvive. Naturalmente parleremo anche degli effetti e delle ripercussioni che questi fatti hanno per ciascuno di noi, anche se sono stati raccontati attraverso le immagini, attraverso le parole. Allora, tornando all'economia, alla finanza e alla tragedia di Parigi, gli asset che venivano monitorati questa mattina in maniera particolarmente attenta erano euro, petrolio ed oro. All'indomani degli attentati nella sede di Charlie Hebdo, lo scorso 7 gennaio, la borsa aveva risposto a Parigi con una reazione positiva. Era stata negativa invece in seguito agli attentati di Madrid nel 2004 e Londra nel 2005. Molto più drammatica fu la reazione all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle nel settembre del 2001. Borse chiuse per una settimana, azione congiunta delle banche centrali e poi crollo dei mercati alla riapertura. Oggi vi faremo un punto della situazione. Vi ho già detto che abbiamo avuto un'apertura negativa, poi un recupero molto rapido. È probabile, almeno questo lo ritengono in molti, che occorreranno giorni, forse settimane, forse mesi per valutare quali potranno essere le ripercussioni economiche a più ampio spettro del danno che è stato inferto alla Francia in queste ultime ore. Tutta l'Europa è già alle prese con le sue difficoltà, c'è un tentativo di ritorno alla crescita che non si riesce a realizzare pienamente e lo abbiamo rimarcato più volte. Proprio per fronteggiare questa situazione la Banca Centrale Europea, Mario Draghi, hanno confermato che a dicembre sarà necessario rafforzare gli stimoli monetari europei. Queste azioni quindi si vanno ad intrecciare proprio con il dramma di Parigi. Andrea Ragaini, ho fatto questo lungo preambolo per chiederle: come mai non c'è nessuna emotività fra gli operatori, fra gli investitori? C'era da aspettarselo? Che previsioni avevate? Allora, il mercato, l'avete detto voi, è cinico e sicuramente questa notizia viene affrontata in subordine al profilo umano e al timore, alla sensazione di insicurezza e di incertezza che ha portato dentro tutti noi. I mercati guardano inevitabilmente dei fatti di medio-lungo periodo e li anticipano. In questo caso il fatto gravissimo dal punto di vista politico, dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, impatta poco sulla tendenza di breve periodo dei mercati finanziari, e questa è stata la reazione di questa mattina. Non ci si aspettava reazioni scomposte e di fatto non ci sono state. Tu dicevi uno scatto di orgoglio, potrebbe anche essere questo, potrebbe anche essere una volontà di far vedere chi si è più forte rispetto ai fatti terroristici che sono accaduti venerdì sera. Io penso che nel medio periodo occorrerà capire quali saranno gli impatti sull'economia reale, davvero troppo presto per valutarlo in questi momenti. Il clima di ripresa del mercato finanziario europeo si basava su una ripresa della fiducia dei consumatori, fiducia che in Italia era ancora più robusta rispetto all'Europa, e inevitabilmente questi fatti portano con sé un'incertezza come genitori, come padri, ma anche come figli, e quindi tutto questo porta a un magari rallentamento di quel clima di fiducia che si era innestato positivo sui mercati dell'economia reale, e questo potrebbe portare nel medio periodo un rallentamento economico, ma è davvero troppo presto per dirlo oggi. Allora, anche perché tra l'altro i mercati dovranno affrontare questa stretta monetaria americana, che è il focus sul quale si stanno concentrando tutti, operatori, investitori, analisti finanziari. Questa stretta monetaria, pur essendo ormai preannunciata e praticamente sicura, non sembra essere ancora del tutto accettata, no, dagli operatori, quella prevista per il prossimo mese di dicembre. Dottor Ragaini, come si intreccerà tutto questo? Le azioni delle banche centrali, questa forte ritorno di emotività appunto legato alla tragedia di Parigi, le scelte che faranno anche i consumatori nelle prossime settimane in virtù di questo clima di incertezza legata ai fatti appunto francesi, ci fa un po' un punto della situazione che possa tenere insieme tutti questi elementi? Beh, da tanti mesi ormai il focus principale, che il mover principale dei mercati finanziari, era rappresentato proprio dalle azioni delle banche centrali. Inevitabilmente la Fed americana ha uno stato di avanzamento del ciclo economico molto superiore a quello che è la Banca Centrale Europea. Lei diceva poco fa, la Banca Centrale Europea nella prossima riunione di dicembre potrebbe aumentare gli stimoli monetari, quindi potrebbe effettuare ulteriori azioni che permettano di iniettare sul mercato liquidità. La Banca Centrale Americana è invece giunta alla fine di questo lunghissimo percorso di stimolo monetario e sta ormai tardando anche troppo nel rialzo dei tassi di interesse. Quindi i mercati finanziari ormai da qualche mese guardano questo cambio di politica monetaria, che ricordiamo è dal settembre del 2008 che vede i tassi di interesse allo 0,25, e che potrebbero inevitabilmente togliere un po' di ossigeno ai mercati finanziari. Purtroppo i mercati si sono abituati a vivere con un eccesso di liquidità e quindi viene vissuto con un po' di apprensione, inevitabile apprensione, questo posizionamento della Banca Centrale, che dovrà inevitabilmente, io spero anche presto, alzare i tassi di interesse per riportare un clima di normalità. Questo porta tensione e preoccupazioni sui mercati finanziari, ma poi vediamolo dal punto di vista macroeconomico. Quando la Banca Centrale aumenta i tassi di interesse vuol dire che l'economia va bene, vuol dire che nel medio periodo ci può essere un rischio di surriscaldamento dell'inflazione, perché i consumatori comprano merci e le aziende le producono. Quindi si torna a un regime di normalità in una crescita di medio periodo. Quindi nel momento in cui la Banca Centrale lo farà, darà un corpo formale al fatto che l'economia americana sta andando bene. L'economia europea invece non va ancora tanto bene, ha bisogno di essere sostenuta. La Banca Centrale Europea è partita 4 anni dopo nei provvedimenti quantitativi e quindi avrà ancora un po' di mesi per accompagnare la ripresa europea con stimoli monetari che facilitino la ripresa dei consumi, il finanziamento dell'economia reale e di conseguenza la produzione maggiore delle aziende. Allora, questo è il punto della situazione che abbiamo rifatto sulle azioni che condurranno le banche centrali nei prossimi mesi. Adesso dobbiamo andare forse a sentire cosa succede sulle strade, sulle autostrade. Poi rifaremo un punto della situazione con i nostri ospiti. Chiedo a Ragaini di rimanere, perché proprio gli voglio fare, dopo, prima della chiusura del nostro blocco, entro le 12, un altro piccolo flash solo sul tema dei beni rifugio verso i quali si tende ad andare in frangenti come questo. Questa mattina questa corsa non l'abbiamo avuta, ma ci arriviamo tra pochissimo. Ci arriviamo. Intanto ci ha raggiunto il nostro prossimo ospite, che già salutiamo, Mirko Alabella, psicoterapeuta. Buongiorno, venga anche lei a sentire il traffico con noi e poi siamo tutti qua. 800 24 0024 per entrare a far parte e a parlare con i nostri esperti. Cuore e denari. Siamo ritornati insieme a Cuore Denari per leggere e aprire anche i nostri microfoni a voi, per commentare insieme come e in che modo i fatti di Parigi hanno dentro di noi lasciato un segno. E allora vi abbiamo proposto di raccontarci le immagini, i suoni e le parole che sono rimaste dentro ciascuno di noi. Con Debora vi invitiamo anche a postare le immagini su Facebook, su Twitter. E ne vogliamo parlare con i nostri esperti, perché è sempre difficile, no, commentare tutta quella serie di emozioni tra loro contrastanti che seguono questi avvenimenti: la paura, lo sconforto, l'impotenza, la rabbia, l'odio. Allora, partiamo dalle immagini, partiamo da un suono, da una parola, da un titolo. Dottoressa, allora, Debora si ricorda gli spari. Io mi ricordo l'immagine, no? L'immagine è un suono, la Marsigliese, come due letture differenti di vedere lo stesso fatto. Che lettura dà di questa differenza? Allora, il mondo sensoriale durante eventi particolarmente traumatici entrano dentro di noi in maniera molto molto forte, quindi immagini, suoni e aggiungo anche odori. Nel senso che fortunatamente noi qui non eravamo presenti, ma anche l'odore entra e si imprime come un brand, un marchio a fuoco proprio nel cervello e nella memoria delle persone. Questo ci dà un pochino la misura di quanto questo trauma collettivo penetri, diciamo, all'interno ogni individuo appartenente a una stessa comunità allargata, quali noi siamo. noi siamo tecnicamente vittime di sesto tipo, ovvero ognuno di noi poteva essere a Parigi. Certo. Oppure ognuno di noi poteva avere il figlio a Parigi, o il genitore, oppure un conoscente. Vittime di sesto tipo significa persone che potenzialmente potevano essere al posto delle vittime stesse. Questo poi è ovviamente il gioco forza degli attentati terroristici per l'imprevedibilità e il fatto stesso che ci riescono a ingaggiare emotivamente, sollecitando emozioni e sensazioni anche corporee molto intense, nonostante siamo sul nostro divano a casa oppure al lavoro e ascoltiamo e vediamo le immagini piuttosto che le notizie. Questo ci porta anche a un altro pensiero protettivo nel come ci dobbiamo proteggere da queste immagini, da questi suoni, da tutto il mondo sensoriale che arriva dentro casa nostra, nei nostri cuori, nel nostro corpo e nel nostro cervello. Sicuramente una parte molto importante è quello di scegliere momenti della giornata in cui sentire, guardare trasmissioni radio, proprio note conosciute, per limitare questa sovraesposizione, in modo tale che... No, quindi non ci dobbiamo lasciare invadere. Esatto, dobbiamo... 24 ore su 24 da notizie. Esattamente, dobbiamo almeno prendere un po' di controllo sulla situazione. Sì. Il controllo non c'è più. Rispetto a quello che è successo, una persona si sente completamente impotente e quindi di non avere proprio il controllo. Almeno noi possiamo controllare quando guardare un'informazione, quando lasciare che le immagini possano entrare dentro di noi e farle in maniera consapevole per proteggerci. Poi è naturale che ci sia una ricerca molto molto molto importante di notizie, perché quando non c'è una spiegazione, la prima cosa che l'animo umano, i pensieri portano è cerchiamo di capire perché è successa una cosa assurda. Quindi più la cosa è assurda, più l'evento è assurdo e traumatico, più abbiamo bisogno di riprendere il controllo e capire quello che è successo. E questo è il motivo per cui c'è questa ricerca molto importante, ecco, di notizia. E a proposito di ricerca, parleremo naturalmente nel corso della trasmissione di come raccontare questi fatti ai nostri bambini, proprio perché l'informazione li mette al sicuro, l'informazione data nel modo corretto naturalmente evita dai nostri bambini questo desiderio di ricercare magari in fonti che non sono adatte alla loro interpretazione. Andiamo a Davide da Vicenza. Davide, benvenuto. Grazie mille per avermi fatto intervenire in trasmissione e complimenti per la trasmissione. Grazie Davide, proviamo proprio partendo dalle immagini, no? A cercare di mettere un po' a posto questa serie di emozioni contrastanti, no? Ci guardiamo dentro e magari non ci riconosciamo neanche. Davide, cosa l'ha colpita? A parte che a me ha toccato direttamente da vicino, perché comunque ho mia zia che abita a Parigi, a una ventina di chilometri da Parigi, però ho mio cugino che lavora poco distante dal Bataclan. Sì. Lui fortunatamente ha finito di lavorare presto e per cui non è successo nulla, ecco, diciamo direttamente a lui. Le immagini che mi hanno colpito sono state quelle di questi ragazzi che uscivano dal Bataclan trascinando corpi di persone morte che cercavano salvezza dalle finestre, appesi alle finestre e non... È una cosa che non riesco a concepire. Davide, noi ci fermiamo qua, diamo la linea al GR, naturalmente riprendiamo con le vostre immagini e i nostri esperti, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Angelo, non prendere impegni per il 2 di dicembre. Che cos'altro abbiamo in agenda? Ma è possibile che devo dirti tutto io? Saremo tutti alle 20:30 all'Auditorium Gruppo 24 Ore in via Monte Rosa 91. Per Chiedimi se sono felice live. Sì, mi ricordo, l'ho segnato sull'agenda, segnatevelo in rosso anche voi. Sarete lì con noi, avremo diversi ospiti e parleremo della felicità. Che cosa ci rende felice dei nostri amici animali e come noi possiamo rendere felici. Per ricevere l'invito della serata dovete andare sul sito di Radio 24 e compilare il forum dedicato all'evento. Ciao! State ascoltando un programma offerto da Uliveto, ti aiuta a digerire. Rocchetta, ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Eccoci ritrovati. Siamo tornati insieme. Cuore Denari commenta, riflette sulla strada di Parigi, sulla strage di Parigi. Lo fa con due esperti, Giada Maslovaric, che è esperta in psicologia delle emergenze e in psicotraumatologia. Parleremo anche tra poco di una tecnica che è riconosciuta dall'OMS per fronteggiare, no? Per affrontare e curare gli effetti che questi traumi hanno sulla persona. Ma è in linea con noi anche Mirko Labella, che è psicoterapeuta a Torino, grande amico di Cuore Denari. Dottor Labella, il trauma è una ferita che rompe, no? Il consueto modo di vivere e di vedere il mondo, ma non tutti reagiscono allo stesso modo. Esatto, buongiorno a tutti, grazie. Allora, il trauma effettivamente è qualcosa di assolutamente enorme, che colpisce, come diceva la collega, i nostri corpi, le nostre menti e il nostro cuore. E per fortuna però non tutte le persone che vivono un'esperienza traumatica reagiscono poi allo stesso modo, nel senso che ognuno costruisce un po' l'evento che si trova a subire in un modo personale, e nel 70-80% dei casi le conseguenze si risolvono naturalmente senza alcun intervento. Tuttavia c'è da ricordare che ci sono delle persone per cui lo stress che subiscono ha un significato che si riassume in un'assoluta impotenza, quindi ad esempio percepire situazioni di morte, di minaccia di morte e di impotenza genera una risposta della mente cronica che genera quello che noi chiamiamo disturbo post-traumatico da stress, cioè un'attivazione continua dei nostri centri d'allarme. È molto famosa è l'amigdala, che è il nostro centro di controllo delle emozioni, che attiva un asse ipotalamo ipofisario, viene chiamato, che rimodula a livello chimico e fisiologico non soltanto i nostri pensieri ma anche poi il nostro corpo, e quindi apre la porta a eventuali altri disturbi importanti. Per fortuna voi accennavate a questa tecnica che è stata validata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è proprio le MDR, che attualmente rappresenta il gold standard rispetto agli disturbi stress correlati. Dottoressa, il dottor Labella ha anticipato appunto di questa tecnica, che ha il bollino blu, possiamo dire, no? Dell'OMS. Di che tecnica si tratta, ed è valida solamente per gli eventi post-traumatici oppure viene applicata anche in altre condizioni? Allora, l'EMDR è proprio una psicoterapia incentrata sul trauma per la rielaborazione dell'evento traumatico. Questa psicoterapia specifica ha appunto alcuni riconoscimenti importanti, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sull'efficacia, quindi viene chiamata evidence-based. Questo cosa significa? Significa che una persona che ha sviluppato un disturbo post-traumatico da stress, con un ciclo di 3-6 sedute di MDR, rientra dal punto di vista, si dice, proprio psicopatologico e sintomatologico. Per i traumi complessi, e qua chiaramente su Parigi siamo su un trauma molto complesso, e gli standard sono di almeno 12 sedute, perché probabilmente ci sono tanti aspetti da rielaborare, non solo l'evento traumatico, come potrebbe essere per esempio un incidente stradale singolo, ma ci sono tanti aspetti che vanno a complicare l'elaborazione. E l'MDR è utilizzato come terapia d'elezione per il disturbo post-traumatico da stress, ma in realtà adesso ci sono molte ricerche in corso sull'utilizzo della stessa modalità terapeutica con, mi viene da dire, qualsiasi tipo di sofferenza. Intuitivamente il passaggio è stato: se funziona così bene con un trauma con la T maiuscola, perché non potrebbe funzionare altrettanto bene con quei traumi con la T minuscola, che però sono quotidiani, traumi ripetuti? Traumi metropolitani, possiamo, lei li definisce, vero? Anche, ma anche una serie di una storia di umiliazioni, di fatiche, di inadeguatezze, diciamo proprio anche sofferenze che non necessariamente arrivano da una ferita dell'anima che irrompe in maniera proprio traumatica, quindi diciamo delle piccole sofferenze che sommandosi però possono diventare delle grandissime sofferenze. Quello a cui si riferiva sono invece i crimini magari efferati. Come Associazione MDR Italia noi interveniamo sia nelle maxi emergenze sia a seguito, a volte purtroppo ahimè, di crimini efferati, quindi infanticidi, femminicidi e quant'altro, comporta sicuramente un aspetto molto traumatico per la persona. E MDR, dottor Labella, possiamo tradurla come desensibilizzazione e riprocessamento tramite movimenti oculari. Chi può praticare questa tecnica e se vuole spiegarcela? Sì, allora questa tecnica è una tecnica avanzata di psicoterapia, quindi la possono applicare esclusivamente psicologi specializzati in psicoterapia oppure medici che abbiano comunque completato poi il quadriennio in psicoterapia. L'EMDR non è ipnosi, nel senso che non si cade in una trance. Ecco, sottolineiamolo perché è facile cadere in questa trappola, no? Sì, no, ecco, perché molto spesso si associano i movimenti oculari a delle simulazioni, sì, che sono utilizzate in altre tecniche come l'ipnosi. In realtà non si produce uno stato di trance, per cui il paziente è assolutamente cosciente, vigile durante tutta quanta la seduta, e l'EMDR poi si compone essenzialmente di 8 fasi, per cui una prima fase si raccolgono le informazioni che porta la persona e quindi la sofferenza per cui chiede aiuto, si prepara il cliente cercando di, con una fase di psicoeducazione, cercando proprio di dare il controllo al paziente, quindi condividendo il percorso che si andrà a fare, dando tutte quelle nozioni di come funziona la mente durante il trauma. Dopodiché si vanno a identificare i momenti più traumatici, quindi le scene attivanti che generano molto spesso delle risposte che sono automatiche, per cui qui apro una parentesi: nel disturbo post-traumatico esistono delle dimensioni di automatismo come risposta che in realtà dovrebbe essere adattativa per il trauma, ma che poi continua a essere innescata, per cui non si spegne più. Esatto, non si spegne più, e quindi io praticamente mi ritrovo a pensare, quando sento una sirena per esempio, ai fatti di Parigi, oppure evito di guardare la televisione per non avere pensieri che altrimenti non potrei gestire. Certo, allora insieme ai nostri esperti vi abbiamo dato un po' la teoria, no? Abbiamo cercato di capire che cosa succede, ma con il taglio classico di Cuore Denari vogliamo dare concretezza a queste parole, per cui naturalmente li mettiamo al lavoro. Mettiamo al lavoro anche Alberto Pellai, che ci ha raggiunto. Alberto, ciao. Ciao, ecco. Debole, buongiorno. Buongiorno. Alberto aiuterà i genitori all'ascolto a raccontare, no? Attraverso parole o immagini, perché no, ai bambini i fatti di Parigi. Il post che Alberto Pellai ha scritto ha avuto un grandissimo successo, segno che di fronte a fatti come questi c'è bisogno di trovare insieme, e sottolinea insieme, un modo di confrontarsi. Quindi, se volete, oltre a raccontarci le immagini e i suoni, adesso leggeremo i vostri messaggi, daremo voce alle vostre naturalmente parole, volete anche raccontarci cosa vi hanno chiesto i vostri figli, no? Le domande che vi hanno spiazzato, come li avete aiutati, che cosa li avete raccontato. 800 24 00 24, con Debora abbiamo voluto proprio dare la possibilità agli ascoltatori di Cuore Denari di aprire il cuore, di confrontare i nostri pensieri, di metterci in rete, perché di fronte a fatti come questi non dobbiamo chiuderci, dobbiamo continuare la nostra quotidianità e imparare una relazione con l'altro, che è l'unico, no, l'unico passo che ci permette di uscire da questa situazione che rischia veramente di A questo proposito mi viene in mente alcune persone viste dopo il terremoto in Emilia, a proposito proprio di relazioni, che durante la rielaborazione con l'MDR hanno detto: può tremare tutto, il terreno può continuare a tremare, ma non gli abbracci. Questa è una frase bellissima, e sottolineiamo anche, voglio leggere alcuni messaggi, sono tanti, di ascoltatori che ci scrivono: perché si fa tanto clamore per i fatti di Parigi, esatto, si dimenticano altre stragi. Esatto, c'è chi si sofferma sempre su questi aspetti, il confronto, che secondo me non serve a nulla. Pensiamo a tutte le persone vittime delle stragi, perché 800 24 00 24, andiamo. Credo che sia anche normale, non so, c'è questa condizione anche di prossimità territoriale, adesso passatemi il termine, forse per me che sono abituata a guardare i mercati e i numeri c'è anche questo aspetto. Non so, dottoressa, se lei è d'accordo, perché ci sembra che i fatti di Parigi siano più vicini a noi rispetto alla situazione che si è determinata due settimane fa, la caduta dell'aereo russo. Poi tra l'altro un ascoltatore segnala questo, abbiamo dato tantissima enfasi così anche a quel fatto. Quindi perché a qualcuno sembra che, come dire, la modalità di trattare gli argomenti sia sempre delle sbilanciata? Il processo di identificazione è molto più vicino sia dal punto di vista territoriale ma anche dal punto di vista culturale. Culturale, infatti. Quindi diciamo che come vittime noi di sesto tipo, in cui vediamo determinate immagini, quindi ci immedesimiamo in alcune situazioni, quando è più facile farlo? Quando la persona che è in quella situazione ci assomiglia, quindi magari c'è a chi è rimasto più impresso alcune immagini di donne magari coetanee, altre mamme che hanno figli adolescenti si sono riattivate di più per questo, e diciamo che la vicinanza con Parigi è una vicinanza culturale oltre che territoriale che facilita questo processo di identificazione. Quindi questo è una delle spiegazioni dal punto di vista prettamente psicologico sul processo di identificazione. Allora, raccogliamo naturalmente le vostre impressioni. Marisa ci scrive: la parola, o meglio la frase che continua a rimbalzarmi in mente, quella urlata da una finestra, che skill pass, che skill pass, cosa succede, cosa succede? Nessuno rispondeva perché nessuno trovava le parole, la forza per pronunciarle, per descrivere l'inferno dentro cui era precipitato. Non riesco a scordare quella domanda angosciata, ci scrive Marisa, ma abbiamo i racconti dei nostri ascoltatori. Ilario, che ci chiama da Torino. Torino. Buongiorno Ilario. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Nicoletta, certo, anche. Allora, io l'immagine che conserverò sicuramente di questi fatti è di due giovani che si abbracciavano e piangevano. Io credo che in questa immagine colgo la coscienza che hanno due giovani, penso che erano poco più che ventenni, di aver preso coscienza della realtà triste, però comunque è una realtà. Quello che mi ha fatto paura è che è stato colpito il patrimonio dell'umanità, i giovani. Io ho 56 anni e tutto quanto. Mi è capitata una cosa bella e se molto brevemente la racconterò. Io mi occupo a tempo perso di ragazzi che possono essere dagli 8 anni ai 15 anni, eccetera. Io vivo in un piccolo centro, praticamente nell'Interland di Torino, e praticamente sabato mancavano all'appello i figli degli immigrati. Noi anziani, diciamo così, ci siamo guardati fronte a bambini e ragazzi, non capivamo perché i figli degli immigrati non c'erano. Noi, i bambini hanno voluto andare a chiamare a casa, come si può dire, proprio perché già era difficile spiegare, se si può spiegare. Certo. E alla fine vi siete ritrovati tutti insieme. Ragazzi, il nostro futuro, Ilario. Grazie per la sua testimonianza e dobbiamo, anche per il suo impegno con questi ragazzi. Sì. Dobbiamo salutare la nostra Giada Maslovaric per essere stato con noi, la ringraziamo. Grazie a voi dell'invito. Vuole lasciarci con un'immagine, una frase, un pensiero su cui riflettere? Che tutti noi possiamo pensare a come riavere il controllo sulle nostre vite. Ci sono alcune cose che non possiamo controllare, tante altre cose che invece possiamo fare, possiamo controllare, possiamo scegliere, un po' come gli abbracci che ci dicevamo prima. Grazie. Un saluto con questo. Grazie. Grazie, grazie con questa bella immagine, Alberto. Ilario ci ha raccontato, no? E arriviamo ai ragazzi. I bambini sono andati a chiamare gli altri bambini. Sì, avevano, proprio... avevano, no, già capito che l'abbraccio è un po' il modo, no, giusto per affrontare questa situazione che invece vuole dividere. E poi credo che questa sia la realtà di tutti noi, cioè della quasi totalità delle persone, al di fuori di pochi fanatici integralisti. Il fatto che nelle nostre scuole, nelle nostre classi convivano bambini di tutte le razze, di tutte le religioni, che ogni giorno trovano il loro modo per stare insieme, il loro modo per continuare a giocare, a vivere, a sperare, ci dà la certezza che questo è proprio il senso dell'evoluzione dell'umanità. Cioè nel progetto dell'evoluzione c'è che l'uomo sarà sempre alleato dell'altro uomo, perché facendo squadra noi possiamo sopravvivere meglio, e questo è scritto nel nostro patrimonio genetico. E invece chiaramente la strage e il modello del terrore, punta a deprogrammare un modello che è evolutivo e genetico al tempo stesso, e quindi a far intuire che ciò che trovo di fronte a me può essermi pericoloso e che chi mi sta di fianco può essermi nemico. Ed è proprio da lì che dobbiamo ricominciare anche come adulti, sentire che insieme io più te siamo noi. Allora, intanto che raccogliamo le vostre telefonate, vorrei leggervi un SMS. Quello di Anna Maria. Brava, leggilo. Sì, tu. No, perché siccome Nicoletta mi aveva già raccontato che anche lei era rimasta impressionata da questa ulteriore immagine fra le tante che stiamo scegliendo come quelle che ci sono rimaste particolarmente impresse di questa tragedia, la rosa infilata nel buco provocato dal proiettile con un biglietto che dice, non conosco il francese, se mi aiuti anche con la pronuncia. Sì, ma che vuol dire tu, sì, perché tutto questo, no? Ah, ok. Ecco. E quindi sì. E poi magari proprio chiediamo anche ai nostri ragazzi, adesso devo fare i mercati, sì, anche questi stiamo monitorando stamattina, se ci pescano, se possono contattare Stefano da Bologna che voleva interagire con noi perché richiama questa tragedia di Parigi, ha richiamato alla sua mente la strage di Bologna di più di 30 anni fa, per cui sì, vale la pena forse sentire anche questa testimonianza. Vi leggo anche prima di andare ai mercati l'SMS di Stefano che ci scrive: provo un sentimento contrastato di rabbia e di paura, invito naturalmente Mirko Labella e Alberto Pelai ad ascoltarlo con attenzione perché è un sentimento secondo me che molti di noi condividono. Rabbia perché la nostra percezione del problema del terrorismo islamico l'abbiamo avuta dopo Parigi, non dopo la strage in Kenya o l'attentato all'aereo di linea russo. Paura perché questa violenza inaudita si può scatenare anche sotto casa mia o in qualsiasi altro posto dove vivo quotidianamente. Allora, ci fermiamo, sono già le 11.30, forse riusciamo a sentire un'altra telefonata prima di sentire i mercati, forse ce la facciamo. Andiamo allora a Daniela dalla provincia di Monza e Brianza che si era messa in contatto con noi da un pochino. Daniela, benvenuta. Buongiorno a voi, ho chiamato per dimostrare a voi la mia l'immagine che ho io. Noi eravamo là quella sera lì, mio marito e altri quattro amici, eravamo al ristorante, facciamo per pagare il conto e arriva la notizia di questo attentato. Allora paghiamo, usciamo e a quel punto cominciamo a sentire sirene, ambulanze. Certo. E dovevamo decidere cosa fare per rientrare all'hotel. E a quel punto sono usciti tutti i camerieri e la proprietaria del ristorante e hanno cominciato a guardare i loro smartphone. E quello che mi è rimasto impresso sono le immagini, i loro visi, dire atterriti è poco. Dopodiché a piedi ci siamo camminati verso il nostro albergo, in mezzo a un bailame di volanti, sirene che andavano a una velocità impressionante. Arriviamo all'hotel e non c'era nessuno alla reception. Le notizie erano ancora frammentarie, a quel punto si sapeva solo del primo attentato con i 18 morti. Nel frattempo con la televisione abbiamo avuto tutte le informazioni. Al mattino, quando siamo usciti dalle nostre camere, c'era un avviso sulla porta dell'ascensore che diceva di rimanere chiusi nelle nostre camere perché non c'era nessuno alla reception, c'era solo un numero di cellulare da chiamare per le emergenze. Io sono scesa comunque alla reception e c'era questa ragazza di origine orientale, aveva un viso cadaverico, veramente era assolutamente impressionata. Un altro viso invece di un negoziante che dopo un paio d'ore, quando ormai la situazione si andava piano piano normalizzando, siamo entrati per comprare un ricordo, un patè, questo signore non riusciva neanche a farci la carta di credito, il pagamento della carta di credito, aveva questa faccia e si è scusato dicendo guardate è una cosa set incroyable. È vero, ecco, il Papa ha detto non è umano. Ecco, le parole di Papa Francesco sono state, secondo me, no? Perfette per descrivere Per cui non abbiamo parole, ma oggi nella trasmissione di Cuore Denari vogliamo proprio, e ringraziamo naturalmente Daniela per avercela raccontata, tirare fuori le parole, e ne parleremo tra poco anche con i nostri esperti, Mirko Labella e Alberto Pellai. Se siete genitori all'ascolto, raccontateci anche che cosa vi hanno chiesto i vostri figli e che cosa avete detto loro. Tra poco. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Uliveto ti aiuta a digerire. Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. e denari. No, figlio mio, non so spiegarti perché a Parigi la follia fanatica di pochi uomini ha spento la vita di centinaia di persone che stavano ascoltando un concerto oppure che erano a cena al ristorante con gli amici. Hai ragione quando dici che le immagini della TV e le parole della radio ti mettono tanta paura. E no, io non posso assicurarti che a noi non succederà mai, che la nostra vita resterà indenne da tutto questo. Però io e te possiamo fare subito qualcosa per rendere il mondo un posto bello in cui vivere. Possiamo abbracciarci. Così i nostri cuori che battono l'uno contro l'altro faranno capire alla nostra mente che non siamo soli. Che io e te possiamo contare l'uno sull'altro quando qualcosa ci spaventa. E sappi che io non sarò mai stanco di regalarti la forza protettiva del mio abbraccio. Riprendiamo Cuore Denari dalle parole del post di Alberto Pellai, un post che ha avuto grandissimo successo, segno proprio che di fronte a fatti come questi c'è bisogno di trovare un po' una guida e di confrontarci. Come avete raccontato i fatti di Parigi ai vostri figli? Quali attenzioni, precauzioni avete messo in atto? Avete affrontato l'argomento o avete cercato in qualche modo di tenerlo un po', no, in disparte, di tenere i vostri figli all'oscuro? Chiamateci 800 24 00 24 e raccontateci anche le domande che i vostri bambini vi hanno fatto. Alberto. Sì, credo che le parole che avete ascoltato sono fortemente sintonizzati con i bisogni che hanno i nostri figli in questo momento di fronte a fatti così sconcertanti, rispetto ai quali noi non possiamo cambiare niente di ciò che è stato. E però c'è la violenza delle immagini e proprio spesso anche il nostro turbamento emotivo, ciò che fa davvero male ai figli è spesso trovarsi di fronte degli adulti che per loro dovrebbero essere protettivi e che improvvisamente invece sono così spaventati da diventare spaventanti, da non avere più le parole, da comunicare ai figli una dimensione di orrore e terrore che improvvisamente a quel punto entra un po' anche dentro la tua vita e dentro le tue case. Allora, come adulti, che cosa ci serve in questo momento? Far sentire ai nostri figli che noi ci siamo, continuiamo ad avere tante attenzioni, tanto accudimento, tanta capacità di costruire protezione nella loro vita, e l'abbraccio è proprio un gesto che in automatico costruisce questa, nella concretezza, questa consapevolezza. Io non posso fermare un fanatico religioso perché non so nemmeno come è fatto, però io posso stare vicino a te in ogni momento e cercare di rendere il più possibile bella e protetta la tua vita. Mirko Labella, volevamo un commento anche da parte sua prima di dare la linea ai nostri ascoltatori, Marco da Reggio Emilia e poi Annalisa dalla Spezia, che ci chiede proprio un intervento. Allora, io sicuramente sottoscrivo tutto quanto ha detto Alberto, insomma, effettivamente noi siamo esseri umani, abbiamo un bisogno innato di connessione, di essere connessi, i neuroni specchio ci dimostrano come le emozioni possono essere condivise nel male e quindi adesso stiamo assistendo a un contagio emotivo di paura, ma lo stesso meccanismo fisiologico funziona anche nel bene e quindi manteniamo il nostro senso di sicurezza. Quindi a me è capitato di ricevere dei messaggi in questi giorni di persone allarmate che dicono: ma non potrò più andare a un concerto, vorrei andare a mangiare la pizza con gli amici e invece la paura per quanto è successo a Parigi mi blocca. Io vorrei rassicurare insomma le persone che quanto la paura che si prova in questo momento e quanto succede è assolutamente normale, quindi in realtà è normale che si per qualche settimana noi si abbia una paura cercando di evitare un pochino quello che accade a Parigi, ma la soluzione non è barricarsi in casa, la soluzione è continuare a non interrompere la nostra routine, cercare di stare insieme a persone a cui vogliamo bene e darci il tempo di poter guadagnare poi le nostre forze. E un'immagine che ha colpito a me invece è una testimonianza di una vittima sopravvissuta che durante la sparatoria si è finta morta e poi rilasciando questa intervista ha detto, ve la leggo: per l'uomo che mi ha rassicurato tutto il tempo mentre era a terra, per le persone che ci hanno aperto le porte accogliendoci, per tutti coloro che hanno aiutato la nostra fuga, per quelli che mi hanno comprato i vestiti nuovi togliendomi di dosso quelli sporchi di sangue. Tutto questo mi fa credere che questo mondo ha il potenziale per essere migliore. Io questa immagine qua, nella sciagura immensa che ci troviamo insomma, a dover affrontare, credo però che non si debba mai perdere la speranza nel fatto che siamo esseri umani e abbiamo un grandissimo potenziale. Sentiamo invece adesso Marco da Reggio Emilia, che ci racconta un po' come la pensa su tutto quello che stiamo così cercando di analizzare questa mattina. Marco, benvenuto. Anche lei ritorna un po' indietro nel tempo, richiamando alla memoria i tragici fatti dell'11 settembre di New York. Sì. Marco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Il problema è che voi chiedete come spiegarlo ai bambini, ai figli, non c'è modo. Secondo me non c'è modo, e la cosa più brutta, forse l'ho sommatizzata stamattina sentendo la radio, ho capito che forse stanno vincendo, perché io dovevo portare mia figlia allo stadio e non so se ce la porto. Perché e come racconterà questa decisione a sua figlia, Marco? Non lo so, fortunatamente o sfortunatamente è ancora un po' è parecchio piccola, quasi 7 anni, telegiornale, insomma. Beh, però l'età delle domande. No, ha chiesto solo che è successo, gli abbiamo detto delle persone cattive hanno fatto male a persone innocenti, però è drammatico. Io sono senza respiro da stamattina. Siamo tutti senza respiro. Perché. Io abito a Reggio Emilia, sono di Roma, tutti gli anni vado a San Pietro a vedere il presepe, a fare un giro a San Pietro, ci torno 2 volte l'anno a Roma, e quest'anno anche lì probabilmente non ci vado. Perché c'è la paura. Possiamo provare a farci aiutare da Alberto Pellai e da Mirko Labella, perché la puntata di Cuore Denari di oggi vuole proprio essere un'occasione per riflettere insieme, confrontarci e anche trovare magari delle strategie. Alberto, che cosa ti ha colpito della testimonianza di Marco e come lo aiuteresti? Ma direi che in questo momento Marco probabilmente sta parlando con la parte più emotiva della sua mente, che è una parte fortemente attivata, che in questo momento è in un processo di traumatizzazione collettiva. Però io lo richiamerei proprio un po' a riguardarsi anche da fuori, cioè a sentire che come adulto e come genitore ha una responsabilità, che è una responsabilità meravigliosa, di testimoniare, di consegnare una visione del mondo ai propri figli, ai propri nipoti, ai bambini della sua comunità, dove devono in qualche modo prevalere le dimensioni che ci servono davvero per essere una comunità che si sente capace di prendersi cura di se stessa. Io credo che la sua narrazione sia una narrazione progressivamente orientata sul fatto che non mi posso più fidare di niente, di nessuno e di nessun luogo, quindi tutto diventa pericoloso, ma questo ci spingerebbe a chiuderci nelle nostre case e a cambiare la nostra vita proprio nella direzione in cui la strategia del terrore vorrebbe farci rimanere e permanere, mentre il messaggio più grande che possiamo dare in questo momento è proprio quello che un po' avete tante volte sottolineato anche voi, che la nostra vita continua. Noi abbiamo proprio direi in questo momento la consapevolezza che siamo in un qui ed ora, dove siamo, ci siamo e possiamo. A me ha molto ispirato sabato quello che ha scritto Marco Follini nel suo blog sull'Huffington Post, quando lui dice: ci aiuta la vita nel pigro scorrere delle sue abitudini, delle sue ritualità, dei suoi gesti, quelle abitudini, quelle ritualità e quei gesti che per decine e decine di francesi sono crudelmente e irrimediabilmente finiti ieri sera, ma che per tutti gli altri debbono invece continuare, non per egoismo o indifferenza o poca sensibilità, ma perché vivere la nostra vita fino in fondo è la risposta più forte, la più efficace, la meno indifferente che si può opporre a questa follia del terrorismo che attraversa le nostre strade. E secondo me come adulti è anche proprio la posizione più educativa, più autorevole, più competente che possiamo testimoniare ai nostri figli. Sì, abbiamo il traffico adesso che andiamo a sentire velocemente, poi volevo già anticipare a Mirko Labella, perché so che è un tema che anche questo è molto delicato e va affrontato, e probabilmente in frangenti come questo si tende, mi sembra almeno molto umilmente dico questa cosa perché non sono l'esperta delle analisi in questo campo, si tende a trascurare, cioè quello che può essere l'effetto di questa tragedia sui soccorritori. E questo perché lo voglio anticipare? Perché c'è la bella testimonianza di Umberto che ci racconta di essere stato vigile del fuoco per 18 anni. Lui dice: conosco la morte e la disperazione, ma non voglio leggervi altro, ve lo anticipo solamente, il resto subito dopo il traffico. Cuore e denari. Eccoci ritrovati. Allora, vi anticipavo già, avevamo questo bel messaggio di questo ascoltatore Umberto che ci racconta di essere stato vigile del fuoco per 18 anni. Lui dice: conosco la morte e la disperazione, poi esprime la sua considerazione sulle modalità con cui occorre guardare a questi fatti. Bisogna perseguire i terroristi, mantenere alto il livello di guardia, ma Mirko Labella, il tema del trauma che subiscono anche i soccorritori di fronte a tragedie immense come quella che stiamo raccontando di Parigi, e poi naturalmente ne potremmo richiamare tante altre. Tra l'altro, Nicoletta, c'è un trauma specifico che... Sì, lo chiamate voi addetti ai lavori, se non sbaglio, il trauma vicario, no? Questa reazione di stress post-traumatico conseguente proprio al contatto con la sofferenza altrui, che è tipico delle persone che soccorrono gli altri. Sì. In pratica quello che succede è che eventi di questa portata di vittime ne fanno tante, non soltanto quelle che classicamente sono le vittime, ma anche chi assiste a eventi che sono caratterizzati da minaccia di morte o assistere a eventi altamente impattanti dal punto di vista emozionale, possono creare esattamente come nelle vittime le stesse sequele psicologiche. E soprattutto dal punto di vista dei soccorritori teniamo presente che loro devono affrontare magari nello stesso turno più eventi traumatici, quindi già di norma un evento del genere è catastrofico, ma pensate voi gli successivi allarmi o doversi spostare nello stesso turno su più eventi di questa portata. Normalmente nella fase di soccorso ci sono diversi momenti, c'è il momento dell'allarme, quello della mobilitazione e poi quello dell'azione. Il più difficile per i soccorritori però molto spesso è quello poi del lasciarsi andare, cioè del riuscire a lasciarsi alle spalle quanto hanno visto. Per questo ci sono delle tecniche di defusing, di debriefing, in cui proprio anche i soccorritori imparano a condividere le loro emozioni, a stare insieme, e spesso sono anche supervisionati poi da operatori psicologi e psicoterapeuti. Certo. Questo ci porta a fare una riflessione, così mi volevo dare anche io una risposta all'ascoltatore di prima. La paura è esattamente come diceva anche il collega Alberto Pellai, quello è la strategia, il punto dove ci vogliono portare con questi atti di terrorismo. L'importante secondo me è non generalizzare, alla fine l'essere umano da sempre vive nel rischio. Può venirmi un infarto tra un'ora, può esserci il terremoto questa sera, può esserci un attentato. Noi normalmente siamo fatti per vivere in un mondo che è pieno di rischi. Sicuramente quello che non deve essere fatto è generalizzare, focalizzarsi soltanto su un certo tipo di notizia, su un certo tipo di pericolo, e iniziare ad avere uno dei sintomi del disturbo post-traumatico, che è il disturbo di evitamento, che è proprio questo: non porterò più mia figlia allo stadio, ho paura a uscire. Quindi non lasciamoci veramente sconfortare. Non ci lasciamo vincere. Ecco, Annalisa dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Io chiamo da Ventimiglia, abito in Francia, vicino Nizza, e ho una bambina di 11 anni che la prossima settimana porterò in concerto a Nizza, un grande concerto di musica hip hop che aspettiamo da un anno. E ci andremo io con la mia amica e i nostri due figli di 11 e 15 anni. Sì. Devo dire la verità, mia figlia è una bambina molto molto sensibile, e stamane, ieri la prima cosa che mi ha detto è: forse è meglio che non ci andiamo. E io le ho risposto che lei era angosciata come me, ancora dobbiamo, certo, riprendere, sì. Ma le ho detto che invece no, noi ci andremo, perché appunto il pericolo è ovunque, anche in auto, anche dappertutto, e non possiamo far cambiare le nostre vite da queste poche persone che mettono in atto queste strategie del terrore. Quindi Annalisa ha invitato la sua bambina a mantenere, sì, i progetti, un segno che la quotidianità... Mi ha fatto piacere ascoltare il post del dottor Pellai, perché stamattina, uscendo per andare a scuola, lei ha voluto di sua iniziativa vestirsi di nero, ha detto che lei era a lutto per tutta la gente che non c'è più. E tra l'altro le ho detto: la cosa che puoi fare, visto che noi abbiamo tanti amici musulmani, la prima cosa che puoi fare quando vai in classe è abbracciare i tuoi compagni musulmani e dire loro che noi sono come noi, sono persone che non differenti in niente, neanche nella religione, il Dio è unico per chi ci crede, insomma. E l'ho invitata proprio ad andare dai suoi compagni a abbracciarli per, sì, non farli sentire all'incontro, soli. All'incontro, Annalisa. Facciamo un commento, Annalisa, con Alberto Pellai, ma abbiamo anche una mail da leggere. È vero, perché c'era questo bel messaggio che aveva ricevuto la nostra collega Laura Bettini, di figlio di amici musulmani. Lei ce l'ha segnalato prontamente per il nostro programma. Questo bambino su Facebook ha scritto, un bambino che va alla scuola media: quando si capirà che terrorismo non significa religione, il mondo sarà un posto migliore. Non generalizzate, se io andassi alla coppa e cominciassi a rubare urlando Allah Akbar, non sono un terrorista, sono un ladro, e non un ladro musulmano. Non generalizzate, se commetto un crimine condannatemi come normale cittadino, non come musulmano. Insomma, queste parole espresse da un bambino fanno riflettere. Allora, molti di voi ci stanno scrivendo per il post di Alberto Pellai. Naturalmente potete andare sulla sua pagina, noi lo linkiamo, oltre a ringraziarlo per essere stato con noi. Alberto, in 30 secondi chiudiamo la puntata. Ma credo che Annalisa ci ha dato proprio un modello di adulto autorevole, competente, con una buona dose di sicurezza. Se noi riusciamo a essere queste tre cose nel parlare di questi fatti con i nostri figli, loro assorbiranno proprio dentro alla relazione con noi la stessa sicurezza, e quindi potranno continuare a averci di speranza nel domani. Grazie ad Alberto Pellai, al dottor Mirko Alabella. Grazie anche a voi tutti che avete avuto la gentilezza di seguirci fin qua. Noi ritorniamo naturalmente domani con Cuore Denari. A tutti una buona giornata.